nemmeno conoscermi. Sintonizzato sulla frequenza della benevolenza, M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma vario. Precario. Andiamo, regà!

Buono così. Hay tiempo. Coming up.

Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Signore e signori. Signore e signori. Gigi D'Agostino.